solito. Graziella, sei ormai siamo passate al 4 luglio perché è mezzanotte e un quarto. Vai, mamma mia. Quindi, No, stavi dicendo che sentivi dal tuo lettino, giravi la manopola della radio. c'era Radio Praga e Radio Tirana. Ma perché ti piacevano? Perché mi piacevano, perché andavo lontano, andavo lontano. Tanto io le lingue non le ho mai sapute, quindi, cioè l'unica era le radio lontane che parlavano in italiano, Perché questo. trasmettevano in AM, per questo si Sì, sentivano. in AM. Sì. La modulazione di frequenza è stata una cosa moderna, Ma eh. l'AM va molto più lontana. Sì. Poi ci sono anche le onde corte e le onde lunghe. Quello più lontano in assoluto sono le onde lunghe, però a me non mi funzionavano mai. Quindi, per esempio, con le onde corte si pigliavano anche delle radio latinoamericane, mi ricordo. Addirittura. Sì. Sì. Cioè, sì, funziona diversamente, ecco. Non ho mai capito bene come, piuttosto io come funziona la modulazione di frequenza. Non l'ho mai capito, cioè mentre l'altro mi era chiaro, questo rimbalzo sull'aria di queste onde, quella non l'ho mai capito perché era modulata che poi copre pochissimo fra l'altro, quindi non so perché ha prevalso quella radio, perché il suono era più pulito, era possibile forse riprodurre in maniera più pulita perché le onde medie, già le onde medie e le onde corte molto di più, aveva tutto quel rumore di sottofondo, cioè, dovevo cercare di capire. Comunque, gli anni del liceo, io potrei proporre questa divisione, ti propongo, rispetto agli anni del liceo, che prima ci parli dei primi 3 anni, poi ci parli del quarto. Nel senso che io ho sempre raccontato, sentito raccontare da te l'epilogo di questo liceo, però prima ci sono stati degli anni in cui l'hai fatto, sto liceo. Sì, allora, il quarto ginnasio ti dirò è l'anno in cui sono andata meglio, che in genere è quell'anno in cui ho più difficoltà. Io, fra l'altro, la terza media manco l'avevo fatta dal mio lettino, non ero manco andata a scuola, però forse cioè, in tutte le cose partivo di slancio, quindi sai, ero molto volonterosa. E mi sono anche divertita perché avevo conosciuto, mi ricordo, avevo fatto gruppo io e un'altra Era ragazza. l'anno scolastico 68-69. Sì, 68-69, sì. E avevo conosciuto questa Quindi tipa prima della riforma del 69. sì, non c'era stata la riforma ancora. Io infatti mi sono iscritta anche con quell'ottica che se mi fossi iscritta un tecnico non avrei potuto fare l'università. Dopo l'anno Certo. dopo mi è cambiato tutto e c'era ancora, io non l'ho fatto perché è cambiato l'anno dopo, c'era ancora l'esame di quinto ginnasio quando mi sono iscritta Ah io. sì. Sì, è stato l'ultimo anno che l'ho fatto e io il primo anno che non l'ho fatto invece. Quindi era proprio il cambio. Io mi Com'era il tuo ricordo, liceo? Raccontacelo. era una scuola piccolinissima dove eravamo due sezioni in quarto ginnasio perché poi in primo liceo eravamo rimasti una sezione. E che devo dire, era piccola, Era no, un palazzo storico, era bella, era era ricca. nella zona di Marzotto perché la struttura di Valdagno era questa, era la struttura con cui litigai anche in primo liceo con il mio insegnante che ce l'aveva morto con me perché lui diceva che era tanto, Dopo, quello dopo, va raccontaci bene, quando l'ha fatto sto liceo. nulla, era una struttura più o meno credo sia stata costruita. Sì, forse subito prima della guerra, negli anni 30, 40, se non dopo, perché è abbastanza moderna, però quel moderno scaccio, cioè brutta, era un po' bruttina, come tutte le scuole, no? Questi corridoi enormi che non servono un cazzo, queste finestre rigorosamente senza tende, che se ci batte il sole ti arrostisci, Sì, quelli che è sempre. impossibile da aprire, sempre tutto un dramma, cioè, problema. Come uno si immagina una scuola. Una scuola di Valdagno. Esatto, quindi piccolina, perché quante classi ci sono state? Se metti il ginnasio c'erano due sezioni, poi passavi al liceo rimaneva una. Quindi tre sezioni, tre classi di liceo più quattro classi di ginnasio, questa era la mia scuola. All'epoca non era come adesso, andava benissimo con un preside, con tutte le sue cosine, così, ma quella era, quindi. Quanti alunni saremmo stati? Pochi assai. E Io mi ricordo ancora il primo giorno di scuola, Laura Magno, quel preside che ci disse: voi sarete la futura classe dirigente. Ah, così, proprio esplicito. Proprio, sì, proprio lo disse, cioè, secondo me lo dicevano sempre, e quindi lo disse. Io ero un po', non capivo bene, però io stavo ad ascoltare, ripigliavo tutto, vabbè, sono venuta ad ascoltare, ascoltiamo. Poi sono finita, vabbè. Quanto è rivestita per il primo giorno di scuola? Ma io credo che ero vestita, forse non avevo più i gessi, ma chissà com'ero allontolante, perché avevo sempre questo busto enorme. Io ho fatto la quarta ginnasio con questo busto pieno di stecche, che era tutta rigida così, quindi ecco, avevo poco da vestirmi. Però in compenso mi piccavo che volevo anch'io fare ginnastica, ma non mi volevano, e non volevo essere esonerata in ginnastica. Quindi convinsi a non farmi l'esonero, però ero esonerata dal fare pressoché tutte le attività, quindi andavo sempre anch'io a ginnastica, però io non potevo fare niente, mi facevano solo giocare a pallavolo e regolarmente rischiavo anche di farmi male, sì, perché sì, zoppicavo sì, tutta. Quindi ecco, questo era il mio approccio. Poi successivamente. Ma com'è in quel periodo? Avevi i capelli lunghi, corti, cavi, eri. Era fricchettona. Fricchettona. Già sì. In quarta ginnasio? Secondo me sì, c'erano neanche tante foto di quel periodo, con i capelli corti, la mamma non andava mai bene, era l'epoca in cui ti vestivano, cioè non c'erano ancora i jeans, cioè subito dopo. Perché no, 68-69 siamo proprio. Cominciarono allora, sì. Capito? Ma io che stavo a Recuaro, io mi ricordo dei gonnoni orrendi proprio delle cose con cui cercava di vestirmi la mamma e di cui io non volevo saperne. Poi portavo gli occhiali, quindi questi occhiali, questi capellini, questi gonnoni enormi. Ma capelli tipo a caschetto, come ce l'avevi? Ce l'avevo avuti più o meno come adesso. Così corti? Sì, secondo me sì. Poi si allungavano, poi ogni tanto li tagliavo. Sì, no, corti, ho sempre portati corti. Ho avuto poi un periodo in cui li ho fatti venire lunghi, ma anche se erano più lunghi, era come se fossero sempre. Ma ti piacevi corti. In quel periodo? No, non mi sono piaciuta mai, quindi neanche meno in quel periodo, figurati. Non mi piacevo neanche dopo, quando ero un po' meglio, per cui ti immagini come potevo essere allora. Per cui quella era una cosa proprio cancellata dalla mia testa, se mi piacevo o non mi piacevo. Rispetto al vestire, miravo a mettermi i pantaloni, in quegli anni poi si poteva fare, finalmente, quindi arrivarono i jeans e io fui felice. E così risolsi anche il problema del vestire, non ho mai più avuto problemi del vestire, perché mi sono vestita sempre uguale. Ma fricchettona a 14 anni nel 68, che voleva dire? Dopo era più evidente Baldagno. Cosa voleva dire, voleva dire che avevo... No, perché dopo, aspetta, dimentico un passaggio, no, però quello è di dopo. Però no, lì era proprio neanche, voleva dire neanche fricchettona, forse ero vestita un po' aperta a sfora, cioè male, male, semplicemente male, secondo me. Cioè io ho ricordi di queste camicie orrende, che, perché cercavo qualcosa che fosse il più possibile maschile. Ma sai quel vorrei ma non posso, che poi ho sempre odiato. Quindi delle camicie a quadri, però magari con ricametto qua, ecco, questa roba è orrenda. E quindi nulla, no, non mi piaceva per nulla, men che meno come mi vestivo. Poi arrivarono i jeans e migliorò la situazione, perché ero portato i jeans e poi sopra qualcosa si trovava. Così ero. Però in compenso mi ricordo, avevo socializzato con questa, di cui non ricordo il nome, ricordo il cognome, si chiamava Disconzi. Questa fu bocciata in quarta ginnasio, quindi non so come a me è successo che invece non fui bocciata. Perché io la trovavo tanto divertente lei, ma lei era proprio all'opposto di me. Io cominciai a fumare per colpa sua. Lei era una, piaceva molto ai ragazzi, ero l'amica brutta che si portava sempre dietro. Perché lei poi non gliene fregava un cazzo sostanzialmente di questi ragazzi. Quindi lei trovava molto divertente far pagare per lei e anche per me. Quindi io andavo, perché ci regalavano le sigarette, ci pagavano da bere, ricordo che io passavo, lei abitava non dalla parte di Recuaro, ma andava alla stazione perché abitava più in giù, a Spagnago mi sembra. Non aveva voglia di fare un cazzo, però era divertente. E passavamo a scuola tutto il tempo a sghignazzare. Mi ricordo che a un certo punto si ruppero i coglioni perché, cioè, facevano troppo casino, quindi fummo divise. per dividerci, io fui quella che finì sulla cattedra, no? Cioè, mi spostarono il mio banchetto andò, avevamo la pedana, Io poi non ho più visto scuole con le pedane. Io c'avevo la pedana al liceo. Ah sì, ecco, anche lì c'era la pedana, quindi c'era sta cattedra sopra la pedana in alto che dominava la classe e il mio banchetto lì anch'io che dominavo la classe. Ma non fu una gran bella idea. Il mio banchetto era sulla pedana. Sulla pedana, sì, mi spostò il banchetto sulla pedana. Io ho fatto tutto l'anno sulla pedana. E però il risultato era che lei era giù, io ero su, facevamo le sceme, quindi cioè, era peggio. In particolare io mi ricordo che si fece, secondo me proprio poveretta, a pensarci ora mi fa pena, avevamo un insegnante di francese che veniva in questa scoletta a Valdagno, aveva penso uno spezzone, veniva da Ravenna apposta con una 500 azzurra. Era una, con, aveva dei capellini biondi con la permanentina, tipo suora, una vocina plebile, plebile. E non dava mai insufficienza. Io, cioè, già al classico, cioè, il francese c'è i primi 2 anni, già a me non mi piaceva, quindi figurati cosa avrò fatto. E aveva da noi l'ultima ora del sabato, ti immagini il sabato da mezzogiorno all'1 che francese facevamo. E io, oltre ad essere sulla pedana, avevo anche la finestra dietro che si apriva e quindi lanciavo le carte fuori alla gente che passava. E io mi ricordo, venivano da fuori a dire che questa classe faceva rumore e lei era completamente sopraffatta e io e quell'altra ci divertivamo a fare le torture a questa povera donna. Io mi sono tanto divertita. E greco e latino mi te lo insegnava? Greco e latino era brava, era una supplente annuale che era la figlia di quello che sarebbe stato il titolare, quindi era una supplente che era malato. Ricordo che era bionda e faceva greco, latino, italiano, storia, geografia, tutto era. Non so se è ancora così diviso. Anche io, no, ora no, ma quando l'ho fatto io sì, diciamo. Anche quando l'ho fatto io. Tutto, sì. C'era sempre questa in quarto ginnasio, c'era sempre, era anche abbastanza severa. E mi maltrattava anche talvolta, però non mi dava brutti voti. Cioè, riusciva abbastanza a gestirmi. Cioè, mi faceva studiare un pochettino. Non perché avessi paura, perché paura con me non è che funzionasse. No, mi riusciva a motivare. Infatti io le cose che ci dava da fare, mi ricordo, tutti i quaderni a scrivere quelle cose dell'Eneide. Io andavo sempre con tutti i miei quaderni a posto di scriverli di notte, in qualche momento strambo, eccetera. Però io i miei quaderni ce l'avevo sempre a posto, avevo questa. Di matematica c'avevo quella che io amavo tanto, che ce l'ho avuta sempre. Tale Fontana, che io ammiravo molto, era una donna geniale ed umilissima, che appunto sono quelle cose che racconto sempre. Una, quando ci spiegò il minimo comune multiplo, quello, no, il nuovo comune geometrico, lì cosa cazzo si chiamava? Cioè, tipo il luogo geometrico, quello che è il luogo dei punti che ha la stessa distanza dal centro alla circonferenza, quella roba lì. E ci fece questo esempio che io mi divertì tantissimo. Insomma, perché vedete, ragazzi, per esempio, il luogo comune geometrico, come cazzo si chiama, delle galline è il pollaio, perché tutte le galline stanno nel pollaio e nel pollaio ci stanno solo le galline. Poi si fermò, disse: no, scusate ragazzi, ho sbagliato, scusate, ho fatto un esempio sbagliato. Ci sono anche le galline allo stato brado, non va bene questo esempio. E poi quella con cui litigai quasi, cioè si incazzò perché faceva anche fisica, però qua andiamo al primo liceo, non so se posso dirlo. Mai, mai. Sempre la Fontana. Cioè, perché sei comunque entro il terzo anno. Sì, ho fatto un po' un... No, c'era questa fisica, cioè, no, ma io in matematica avevo sempre bei voti, perché non c'era lo scritto, ma mi ci piaceva, poi insomma, no, bellissimi, io sempre... Cioè, magari avevo 7, per me era un voto bellissimo, altissimo 7, quindi, ma perché mi piaceva fare, se ci davano gli esercizi da fare a casa, io compitavo gli esercizi, era una cosa un po' da ossessivi compulsivi. Ma sta che si va a fare sta fisica e una delle prime cose ci fa il pendolo, c'era questo laboratorio di fisica tutto bello organizzato, perché ci andava anche la figlia di Marzotto, quella scuola lì. Fino al primo anno che ci sono andata, io facevo la quarta ginnasio, la Pia di Marzotto faceva la quinta. Dopo c'è stato il 69 e allora l'hanno tolta, l'hanno mandata in Svizzera, non c'è più stata. Okay. Però inizialmente c'era anche la Pia di Marzotto, quindi il laboratorio di fisica con tutte le varie attrezzature, il piano inclinato, con tutte le palline metalliche a vedere. Fra le varie cose c'è il pendolo. Quindi ci spiega il pendolo, che dal pendolo si vede come gira la Terra, perché il pendolo pendola così, la Terra pendola colà, e quindi vedete ora, ragazzi, che il pendolo prima faceva così, ora si è spostato in qua, perché la Terra si è girata di... Io fa il mio ragionamento, e per me il pendolo sbaglia. Lo so che uno dice, si fa apposta l'esperimento per dimostrare, però alzo la mano e dico, scusi, secondo me però non va bene come fa il pendolo dovrebbe andare dall'altra parte. Ma si è incazzata, cioè come il pendolo, cioè si fa apposta. No, ma io, ma non è, non sai, dava del lei, ma non è convinta? No, non sono convinta, perché vedi, perché secondo me patapim patapum, ovviamente tutti ridacchiavano che io volevo il pendolo, lo sapevo io del pendolo, e nulla, e finì così. Dopo qualche giorno io sono, stavo spesso a studiare in biblioteca, di solito andavo a quella comunale, ma qualche volta c'era anche la biblioteca di liceo, quindi ero lì che studiavo con degli altri e vedo la fontana che arriva verso di me. Lei aveva sempre un grembiule nero tutto sporco di gesso, perché lei sputava gesso da tutte le parti, con un librone grossissimo che viene da me. Questo rimaneva. Ma sa che aveva ragione, io non capivo, del pendolo, questo librone, ma aveva ragione, andiamo subito in laboratorio, no, di fisica, questo... chiama l'assistente tecnico, dice il pendolo sbaglia, manda l'assistente tecnico, mi fa prendere una scala, manda su in cima l'assistente tecnico a controllare il pendolo come è attaccato. Avevo ragione, c'era un chiodino che avanzava dal muro e quando il pendolo pendolava non seguiva il ruotare la terra, pigliava dentro il chiodino e quindi dava il giro dall'altra parte, che era quella sbagliata però. E quindi decise, annunciò la volta dopo in classe che avevo ragione del pendolo. Ma e lei ora ha 7 ad honorem. Io non sono mai più stata interrogata in fisica, perché neanche in matematica ho avuto 7 ad honorem. Quando poi ho fatto l'università e ho dovuto fare fisica, però mi sono un po' pentita di quel 7 ad honorem, perché non avevo idea di niente, assolutamente. Fra l'altro la lezione era la prima ora, quindi non la frequentavo. Ho anche preteso a giugno di tentare di andare a fare l'esame scritto, non ho neanche capito la domanda, parlava di conduttori, ma non è una roba di fisica questa. Poi l'estate ho studiato e sono andata a fare l'esame di fisica, però ecco, avevo 7 ad onore. Ecco, questa era la fontana, ce l'ho avuta alla quarta ginnasio, sempre la fontana. Poi nel 69 te facevi la quinta ginnasio, a Valdagno successero delle cose. Beh, vabbè, quello che racconto sempre. Era l'autunno 69, quindi io facevo la quinta. Quindi avevo fatto la quarta ginnasio, che ero stata tutta femminina promossa a giugno, ma anche senza 7 ad onorem a fisica, ma ero studiata matematica da per me, perché quello l'ho acquisito dopo. E mi ricordo che ho fatto quell'estate lì, però ecco, è stato un anno in cui la mia amica lì con cui facevamo, la bocciarono, quindi la persi, e fu quando poi in quell'epoca cominciai a socializzare con quelli della Corriera di Arequaro, andare alle riunioni politiche, quindi a cominciare a fare le cose. E quindi con i cattolici del dissenso. Con i cattolici del dissenso, sì, andai anche a due riunioni della PGC, ma pensai... Già c'era una chiesa, non ne volevo un'altra, non mi piacquero quelli della PGC, troppo dogmatici, non ci andai più. E quindi c'avevamo questo, c'avevamo anche un nome come gruppo, ma non me lo ricordo più, un nome strambo, non me lo ricordo più. E ci trovavamo tutti i giovedì, la nostra sede era l'ambulatorio, che la sera non era... la sala d'aspetto dell'ambulatorio del babbo di una di questi che faceva il medico condotto. E quindi la sala d'aspetto era una stanza grande con tante sedie, quindi era l'ideale per noi. Facevamo le riunioni nell'ambulatorio, nella sala d'aspetto. E quindi cambiò anche la mia vita, cioè cominciai a vivere molto meno a scuola, cioè cominciai a trovarla meno divertente sostanzialmente. Tra l'altro cambiò anche insegnante di italiano, storia, geografia, venne un altro che era uno, era un siciliano arrivato da poco che se la tirava molto, era molto e la sua classe doveva essere la più brava di tutte. E mi ricordo, ci dava dei compiti di grafico che io non capivo niente, tutti copiavano e io mi pissavo di non copiare sto greco, perché cioè, scusa, o lo so o non lo so, io non ho mai copiato. Se ero capace io gli passavo i compiti, ma se no non ho mai copiato, perché sono stupida forse, perché insomma io volevo farlo io. E quindi io pigliavo sempre il treno in greco, ricordo che andò la mamma a vedere questo e mi dice, la sua figliola ha un problema, non è abbastanza umile, tutti gli altri copiano, dovrebbe copiare anche lei. Cioè, ora ti pare una bella cosa. Mamma invece mia. Non è umile, non vuoi copiare, così piglia tre, ma perché ci dava delle cose per far vedere i colleghi quanto era avanti lui, secondo me. Fatto sta che pigliai greco a settembre, andai a farlo, ho detto un compito normale, non avevo neanche studiato d'estate, fui in grado di farlo, così andò quello del greco. Però in quell'anno lì ero anche molto meno motivata, cioè frequentai meno compagni di scuola eccetera, perché ero tutta compresa dal fatto che avevo questo mio gruppo al quaro, cominciai a uscire tutte le sere, figurati, andavo a letto alle 2 di notte. I miei, che tanto venivano da questa mia storia precedente, dal ponte e tutte le menate, tutti dicevano deve socializzare, quindi mi lasciavano uscire perché dovevo socializzare. Quindi praticamente a 15 anni, cioè penso che a 14 anni avevo l'orario che dovevo rientrare alle 10, però non rientravo mai alle 10. Allora a 15 anni mi dettero l'orario alle 11. Però anche quando andavi a scuola la mattina dopo uscivi la sera? Sì, sì, tutti i giorni, sempre. Stare qua comunque, cominciava a diventare un posto... E poi quando ne ho avuti 16, l'orario era mezzanotte, ma siccome non lo rispettavo neanche lo stesso, a un certo punto l'orario era torna prestino. Ma che facevi le sere, quindi, scusami? Al bar, con questi amici, stava alle riunioni, il bar, c'erano le assemblee. C'erano sempre cose da fare, guarda. Le assemblee, perché eri dentro questo... Un po' questo gruppo, ma poi facevano le assemblee con gli altri. Poi i consigli comunali tutti, non se ne perdeva uno, cioè eravamo peggio di però insomma, dove ti collocavi? Dove ti collocavi politicamente? Come hai parlato genericamente di... Allora, io le prime riunioni che andavo, che lì erano del PC, molto dal di fuori, io non capivo neanche bene se ero di destra o di sinistra, non capivo niente. Mi pareva che fossero troppo che sapevano, quindi pensavo io forse sono di destra allora, che questi comunisti a me non mi ci piacciono. Ma questo a 14 anni, poi già a 14 anni e mezzo capì che non c'entrava un cazzo questo, quindi cominciai a pensarlo un po' a mio modo, ma soprattutto andavo alle riunioni con questi, quindi mi fece abbastanza indottrinare da loro che erano cattolici del dissenso. Poi leggevano molto, io non ero una... c'erano quelli che leggevano di più, che aveva letto tutto, che aveva letto il Capitale, che leggeva, però andava tanto di moda, c'erano, mi ricordo, tutti erano innamorati di questi mitici teologi olandesi. Sì, c'era questa scuola olandese di teologi di sinistra che erano importanti. Io guarda, poi c'erano i preti operai, quelli francesi, c'era tutto un proliferare di preti operai francesi, di cui andavano in fabbrica, eccetera, insomma, tutte queste cose. Ma scusa, grazie. Allora, questo gruppo, diciamo, allora, noi in questo gruppo si faceva così: tutti i giovedì si leggeva qualcosa sull'America Latina, perché era il continente del futuro. Ok. E quindi c'era questa roba dell'America Latina. E questo libro si leggeva tutti assieme a voce alta. Okay. E dopo un altro, sempre su queste cose. Però poi ovviamente non ci si fermava lì, perché bisognava entrare nel merito anche della nostra quotidianità, perché il mondo era uno. Certo. Quindi andavamo, facevamo le riunioni con la FIGC, di cui eravamo alleati, facevamo i volantini, seguivamo quello che accadeva e poi ognuno anche nel proprio, quando andavamo a scuola, partecipavamo al movimento studentesco. Sì. Quindi tutte le manifestazioni, facevamo volantini, volantinavamo, ci si univa ad altri movimenti, gruppi un po' più grossini a Valdagno, perché noi poverini eravamo... Ma a scuola sua c'era un po' di movimento? A scuola mia c'era mica tanto movimento. cioè io ero una di quelle cattive sostanzialmente, che poi pigliava le note perché aveva scioperato, però poi smisero di dare le note perché aveva scioperato. Però no, a scuola mia era difficile portarci qualcuno. Scusami, tu questo gruppo di Recoaro, di questi ragazzi, l'hai incontrato, sono quelli che hai iniziato a incontrare attraverso l'autobus? Sì, sì. Li hai incontrati sull'autobus e poi pian pianino hai iniziato a partecipare a queste riunioni? Sì, poi ha detto, tanto il paese è piccolo, vuoi venire anche te? E quindi sono andata. Che erano un pochino più grandi di te. Erano tutti più grandi di me. Cioè... Ma faceva le superiori? Sì, sì, facevano il liceo, la maggior parte. Liceo? Loro, guarda, avevano 3 anni prima, cioè quindi quando io facevo la quarta ginnasio, loro facevano, mi sa, la seconda liceo, o la prima liceo, 2 o 3 anni più di me. E questi erano, diciamo, di che ceto sociale erano? È un po' tutti meglio di me. Era il figlio del dottore, il figlio del geometra. Degli albergatori, tutte le classi più alte di me, questo sì. E si riconoscevano, diciamo, quasi tutti nel cattolicismo, questo gruppo nel cattolicismo. Allora, si veniva da lì, e quello secondo me che ci accomunava di più è, saremmo stati comunisti alla fine, ma non ci piaceva il PC. Certo. Cioè, in particolare la FCC, cioè che era molto sovradeterminata, tutti noi avevamo fatto. Dopo alcuni amici frequentavano la PCC, cioè, quindi poi alla fine si formò questo gruppo di amici invece, dove c'eravamo noi, ma anche qualcuno che invece era della PCC. Era un gruppo misto, maschi-femmine. Sì, sì, sì, e quindi era anche un gruppo abbastanza eterogeneo, dove poi il confine era molto poco chiaro fra dove iniziava l'essere parte di uno stesso progetto politico e dove invece era l'amicizia che ti legava. E secondo me questo invece era avanzato, perché la modalità era molto simile a quella di un collettivo. Certo, sì. E difatti per me è stata la mia reale formazione politica quella lì, che dopo sicuramente, specie nel mio gruppo, ognuno in maniera diversa, cioè avevamo questo gruppo, però anche esperienze diverse, non venivano... si potevano amalgamare. Per esempio io per un periodo sono stata iscritta alle ACLI, perché le ACLI è stato il periodo della svolta socialista delle ACLI, che fu quando le ACLI fecero la svolta socialista, metà uscirono e dettero origine a un'altra associazione cattolica che c'è tuttora, che mi sembra si chiama di destra, Movimento MCL. Cioè se uscirono a destra l'MCL. Sì, perché le ACLI si erano spostate a sinistra. Mi ricordo, questo però era forse un po' dopo, non votavo, quindi non avevo 18 anni, la campagna elettorale che contribuì a fare, cioè quindi andavo a volantinare, eccetera, per questo tentativo fallimentare di Labor, che mi ricordo come si chiamò la lista, però era un po' sul modello di quello, secondo me, che dopo ha fatto Orlando a Palermo. Cioè era uno che veniva dalle ACLI, Labor, credo sia stato anche, fosse stato precedentemente presidente delle ACLI, e aveva dato origine a questa lista di sinistra, però cattolica di sinistra. Livio Labor. Sì, no, io mi ricordo Labor. Io credo che se si è candidato, abbiamo fatto questa lista nel 72, ma non vorrei sbagliare. Però, ecco, poi il mio percorso di anni del liceo è quello. Quinto presidente delle ACLI, membro della Compagnia di San Paolo e della Democrazia Cristiana, divenne in seguito senatore del Partito Socialista. Infatti lui fu quando si spostò e fece prima questo tentativo. Cioè, tipo, pigliò lo 0,000, una roba proprio... Però, vabbè, in qualche maniera, cioè, era comunque un tempo, un periodo in cui dovunque tu ti situassi, se tanto stavi al mondo, certo, cioè, qualcosa succedeva. E voi in questo gruppo, appunto, facevate un sacco di cose, cioè, leggevate i testi regionali, sì, poi, poi... facevamo anche il nostro proprio volontariato, cioè, avevamo i nostri vecchi, dove il sabato andavamo dai vecchi, soli, abbandonati, a pulirgli la casa su per i monti. E quindi anche lì era tutta un'avventura. Io mi ricordo un'anziana, tale Cristina, che era anche quello un personaggione. Questa Cristina era una tizia che era stata a servizio da Faradiba, che era la moglie dello scià di Persia, e quindi era stata via dare quaro per tanto tempo. Poi era diventata vecchia ed era ritornata, era rientrata a Requaro ed era, aveva questa casetta a Santa Giuliana, la frazione di Santa Giuliana sui Monti. Ma lei era una persona evidentemente non autosufficiente, ma sai, quelli che non accettano niente, quindi i servizi sociali non esistevano, l'assistente sociale non esisteva ancora come figura, e quindi noi ci siamo come gruppo. Abbiamo scelto di andare da Santa Cristina, avevamo 4-5 vecchiotti, una era lei. E ci andavamo il sabato. Dopo scuola, cioè finita scuola il sabato, che quindi si era un po' più liberi, si partiva, si andava a piedi, cioè camminava un'oretta per arrivare a Santa Giuliana, si andava. La vecchia Cristina noi apriva, non si sa bene perché gli facevamo simpatia. Lei nel frattempo era rimasta bloccata a letto, perché era ingrassata troppo. Quindi noi, quando la si pigliò, questa vecchia Cristina, lei viveva sempre a letto, in questo letto che avevano messo un po' in discesa, così, dentro la casa. Lei non era autonoma per alzarsi, però aveva un buco dove c'aveva un vaso dove faceva la cacca, la pipì, eccetera. E poi da lì c'era un cesso di quelli, sai, col buco dove la buttava giù. E quindi era diventata autonoma, ma proprio una specie di letamaio. Poi aveva, in qualche maniera, riusciva a trascinarsi, a farsi da mangiare, ma non aveva più la stufa. Quindi alla fine, pensa e ripensa, abbiamo provveduto alla vecchia Cristina una stufa, che era quella della mia nonna, che aveva cambiato casa, e quindi siamo andati con una macchina trovata non so dove, con uno che sapeva guidare, fino a Trissino, a prendere sto cazzo di stufa economica da portare alla Cristina. La Cristina aveva anche dei campi, un po' di campi, dove c'era dell'uva, e lei voleva vendemmiare la Cristina. Cioè, nonostante fosse messa così, lei doveva vendemmiare la sua uva. Quindi mandava noi a raccogliere l'uva. E mi ricordo, 2 o 3 stagioni l'abbiamo fatta, e l'ultima stagione andò così, che poi la gente si stufa. Fatto sta che si raccolse questo cazzo di uva, bene messa, noi seguivamo sicuramente le istruzioni della vecchia Cristina, si mise quest'uva in un tino e disse lì deve bollire quest'uva, deve bollire, e poi bisognava pestarla, si pestò anche, ma non ci si entrò, con dei bastoni si pestò questo cazzo di uva, la si lasciò lì un paio di settimane, e poi bisognava andare a imbottigliare, quindi secondo la Cristina direttamente dal tino alla bottiglia. Però il fatto è che quel giorno non si presentò nessuno, solo io e una mia amica, che era l'altra piccola del gruppo, che era anche più piccola di me, aveva un anno meno di me, lei faceva ragioneria, si chiamava Graziella anche lei, quindi ci si presentò noi due dalla vecchia Cristina imbottigliare, e quindi Cristina lì per lì ci rimase un po' male che i ragazzi non erano venuti, però ha detto no, ma andrebbe anche a altre, su via. Però qua, a me piace, lo dico in italiano, a me piace il vino forte, quindi dovete mettere tanto zucchero dentro. Ma come si fa poi, diciamo, qua, passare da stottino, c'era il cusino sotto, ma il tino era grosso, e c'erano tutte queste bottiglie, tante bottiglie c'erano. Beh, bisognava dal tino alla bottiglia, non è andare dal tino alla botte, secondo me, ma non c'era. E quindi no, direttamente. Ma bisognava anche farlo partire questa manovella dal tino, quindi per far partire il tino e metterlo nella bottiglia bisognava tirar su, quindi, e si beveva un bel po' di vino, si metteva nella bottiglia, insomma, e tira su e bevi il vino, ci si abbriacate e poi smetti il zucchero. Guarda, si passò tutto il sabato pomeriggio sempre più ubriache, con la vecchia Cristina di su che ci dava ordini, e alla fine siamo state brave, bravissime. Quando è venuto buio, sera, ci ha detto ora dovina a casa, però una bottiglia di vino ciascuna ve la porta via. E quindi ne siamo partiti in gloria con il regalo della Cristina. È arrivata a casa vuota, cioè ci siamo bevute anche quell'altra bottiglia. Aveva 15 anni. Io non so in che condizioni sono arrivata a casa. In tutto ciò, la vecchia Cristina, però, non voleva mai, aveva delle stanze di sopra, non voleva mai che nessuno salisse in queste stanze di sopra. È matta. Oh, quando è morta, io non c'ero più, hanno detto, hanno trovato milioni di sopra. E perché i soldi? E viveva così. E noi andavamo a gratis, sono andate a prendere a gratis la stufa della mia nonna. Aveva i milioni sul tetto. Non ha parenti, nessuno. Quindi insomma, leggevate i testi latinoamericani, facevate volontariato. Andavate al bar. Tutte al bar. Avete un vostro bar o giravate tutto il centro? Allora, avevamo il nostro bar, che era il bar Casinò. Quando mi vedevano arrivare, mia mamma si ansiava verso l'una, le due di notte. Mandava il babbo a vedere se era successo qualcosa. Mio babbo arrivava al bar Casinò, vedeva che c'erano ancora le luci, vedeva noi là dentro, tornava sempre al bar Casinò. Non era successo niente. Bar Casinò sempre. E dopo c'erano le serate in cui il divertimento era quel giro di bar. Quello sicuro. Ma che ce n'era 120, quindi sai te a far giro del bar. Ma in tutto questo, in questi anni di appunto volontariato, politica, ubriacatura, eccetera, ti piaceva mai qualcuno o qualcuna? Cioè, a me mi piacevano un po' tutte le ragazze, però non me lo dicevo. Continuava a essere un grande rimosso. Sì, completamente un grande. E nessun fidanzato? Ho avuto un mezzo fidanzato, sì, perché poi insomma sei nel gruppo e bene o male, ma non fregava nulla. Mezzo fidanzato, sì, tale Giancarlo Sticca. Era brutto come la fame, matto come non si sa, uno dei più maturlani, era perfetto per me. Ma secondo me, non lo so se eravamo fidanzati. Qualche volta abbiamo scopato. Non so se questo rappresentasse essere fidanzati, ma eravamo fidanzati senza esserlo, ecco. Quindi per me era perfetto Giancarlo Sticca. E perché anche lui mi sembrava che avesse un po' le mie stesse esigenze. Cioè sì, però... Ma era il primo il quale aveva avuto un rapporto? Sì, Giancarlo Sticca, sì. E avevi tipo 15-16 anni? Sì, penso di ma sì. Ma il fatto di avere, cioè, il tuo primo rapporto sessuale l'hai vissuto così, con la stessa leggerezza, raccontando così? Nonostante tutto, sì. Non avrei detto con tutte quelle cose, perché non era una cosa... Mi ricordo, la prima volta fui in un posto che poi, secondo me, non eravamo neanche capaci fra tutte e due. Mi ricordo al ritorno che si era andati a ubriacarsi su da qualche baita, perché si andava spesso anche nelle baite, al ritorno si finì in un fienile. Ma sto fienile, io non so come abbiamo fatto e cosa abbiamo combinato, perché era anche un po' incerto, cioè io non ero sicura che reggessero le assi di sto fienile, e quindi ero un po' sulle spine per questo. Il mio primo rapporto sessuale, quindi ti immagini quello, cioè era talmente insignificante che proprio non mi sturbò. Cioè non ebbe una... E quello proprio con questo Giancarlo Sticca. Ma dopo... No, poi ma era tranquilla anche dal punto di vista di una morale abbastanza rigida? No, quello io non sono mai stata moralista. No, non te, però eri in un ambiente... Cioè... No, neanche... Cioè noi, no, non eravamo moralisti. E i miei, devo dire, non mi hanno mai chiesto niente. Occhio non vede, dente non duole. Quindi loro non mi hanno mai chiesto, ma hai qualcuno? Anzi, la mamma, secondo me, che forse qualcosa intuiva, non faceva altro che sperare che trovassi qualcuno. Ma perché dopo, quando cominciai a muovermi successivamente, ogni tanto portavo qualcuno. Però non mi hanno mai... Ma dopo Giancarlo Sticca ce ne sono stati altri? Di Raquaro, di quel gruppo lì, no. Dopo, successivamente, perché poi quel gruppo lì si è un po' rotto quando loro sono andati all'università. Perché anche Giancarlo Sticca era più grande di me, aveva 2 anni più di me. Aveva forse un anno di meno degli altri. Però quando loro hanno finito, io mi sono dovuta riciclare. Poi, tra l'altro, non a caso, secondo me è anche coinciso con quando io ho lasciato la scuola. Perché a quel punto era un percorso... che per loro era finito e per me era come se fosse finito anche per me, però io avevo fatto la prima liceo, loro avevano fatto la terza, quindi quella è stata, lì è cambiato anche qualcosa, quindi c'è stata tutta questa prima fase del liceo. Ma al movimento operaio a Valdagno, alle manifestazioni, ci hai partecipato con loro? Sì, con loro sicuramente, e non solo con loro. Cioè, perché nel 69 che succede a Valdagno? Nel 69 c'è il movimento operaio con la Marzotto, cioè con gli operai che si ribellano. In realtà tutto nacque dal fatto che avevano la Marzotto aveva deciso, fu sul Cottimo, cioè praticamente ogni operaio aveva da badare un tot numero di telai. A un certo punto introdussero il Cottimo, quindi questi telai dovevano rendere, ma lì contrario, cioè se uno non rendeva quanto il miglior operaio, gli veniva detratto lo stipendio, non dato in più. Ovviamente fu troppo, fu un po' la goccia che fece traboccare il vaso. Quindi da lì partì prima l'occupazione della fabbrica, l'occupazione della città di Valdagno, che poi in realtà era una dependance di Marzotto, era tutto di Marzotto a Valdagno, compreso il mio liceo, quindi. E in particolare, poi fra l'altro se ne parlò molto all'epoca di questa situazione della Marzotto, molto fece anche il movimento studentesco, perché scesero da Trento, quindi scesero da sociologia di Trento, che c'era un poco, non so io quando fosse stata, sia stata fondata sociologia. Era da poco, era. Sì, c'era un poco, quindi era una novità questa sociologia a Trento. E quindi scendevano da Trento, e quindi noi figurati, cioè. Avete avuto a quel punto la fabbrica occupata? Sì, la fabbrica, ma il paese soprattutto, cioè era più quello che c'era manifestazione che non fa quello che c'era a scuola, quell'autunno lì, famoso autunno caldo, cioè che in Italia più che il 68 fu l'autunno caldo che pesò nel paese, e anche nel movimento studentesco. E voi che facevate? Ma noi non è che, cioè così, assemblee infinite, e questo a me piaceva molto andare alle assemblee, non parlavo mai. Perché ho durato anni prima di riuscire a prendere parole in assemblea, e non è che fosse così scontato, anche perché poi c'era quelle cose paldose, cioè davvero a volte nei film, ma era proprio così, cioè questo linguaggio, e quindi queste infinite assemblee, per cui si stava a giornate, cioè finché c'era un pullman per tornare a casa si poteva stare. Quindi non è che c'era qualcosa poi di concreto rispetto a questo, era partecipare innanzitutto alle manifestazioni cercando di portare almeno qualche tuo compagno di classe, almeno qualcuno, e poi tutte le varie assemblee, c'era sempre da imparare, io quello mi ricordo, per me quello è stato il movimento. Ma facevate assemblee solo tra studenti o anche all'operai? No, erano varie, c'era l'assemblea a scuola, poi un punto di riferimento per tanto tempo, che non mi ricordo come fosse la gestione, fu una sala del comune di Valdagno accanto alla biblioteca, c'era una sala bella grandina, e a un certo punto entrò in una forma di autogestione. Ed era sala? Come sala, esatto, cioè fu occupata tipo, che poi magari non si stava a dormire ma si era messo le chiavi, ecco, e quindi era occupata dagli studenti. E venivano invitati gli operai anche, quindi era più che altro un'elaborazione di confronto, di, cioè quella cosa che poi mi ha messo in mente la mitica classe operaia, no? Cioè, ma era quello che succedeva, quello che passava come messaggio in quell'epoca. Quindi sì, cioè, ma anche di riflessione sulla tua appartenenza, cioè con tutto era anche, boh, cioè, si cominciò a muovere queste cose. Partì un po' da lì, più che dal 68, almeno nel posto dove vivevo io. Cioè il 68 io non c'ero, quindi non so se si è percorso qualcosa a Valdagno, ma Valdagno poteva essere solo la Marzotto che si muoveva, nient'altro, perché non è che ci fosse un concentramento di studenti tale da cioè noi poveretti eravamo quei 200 studenti, se c'eravamo, del liceo, più gli altri, ma non eravamo un numero così grosso, cioè per quando si mossero gli operai della Valdagno fu una cosa pesante, e infatti tutto culminò nel mitico abbattimento della statua di Marzotto. Ma sì, cioè? Perché gli operai, c'era questa statua di Marzotto in un giardino del fondatore tale Gaetano Marzotto, che l'aveva fondata all'inizio del Novecento, e al culmine, oltre a incendiare un po' di macchine, a rovesciarlo la statua di Mazzotto, e tutti a vedere la statua di Mazzotto arrovesciata. È rimasta là per anni questa statua arrovesciata a monito di Mazzotto, tanto che io credevo che ci fosse sempre, e un bel giorno accompagnai la Biagini a vedere la statua di Mazzotto, almeno dove era caduta la statua di Mazzotto. Ma non l'aveva tirata su, no. L'aveva rimessa in piedi, e davvero. A metà anni 90 era su, non si sa quando l'avevano ritirata su. Ma senti, se ti viene in mente, non so, qualcosa che hai che anche di queste letture che facevate, c'è qualcosa che ti colpì? Secondo me no, punto di vista, che guarda, erano cose un po' noiose. Allora, sì, cioè, anche su questo io vivevo due piani molto diversi. Ci sono le foto della statua rovesciata, come sì? Dici te, sì. Almeno sì, perché quando l'ho vista in piedi ho detto non mi cadrà neanche, che c'era stata arrovesciata. È stato di anni la statua arrovesciata. Era diventato un monumento di cultura. Un monumento rovesciato. Cioè, allora, io seguivo queste robe e mi facevo tutto un ragionamento. A me di quei libri non ero mica tanto adatta, mi interessava il giusto. Invece quello che mi piaceva leggere era tutt'altro, con cui non mi misuravo con nessuno, un po' quello che evidentemente è una mia caratteristica, molto individualista in questo. E avevo trovato questa bella bazza, secondo me mi piaceva tantissimo, che quando non c'erano le manifestazioni o altre cose che non potevano essere tutti i giorni, io rimanevo a Valdagno, che non mi ricordo dove andavo a mangiare, perché forse non mangiavo. Forse mi davano i soldi per un panino e io invece compravo le sigarette, immagino. Infatti ero sempre magra per forza. E mi ricordo andavo in biblioteca. In biblioteca dopo un po' mi conquistai la fiducia del bibliotecario, la biblioteca comunale, e sotto avevano una stanza enorme piena di libri che dovevano sempre classificare. E quindi ero molto curiosa. Puoi vedere, cioè un conto, sai, quelli già classificati. Lì era il mondo vario che non si... E quindi io avevo il permesso di scendere e passavo i pomeriggi là sotto, e me ero appassionata in particolare, li avevo scientificamente ricercati tutti, degli scrittori russi, qualsiasi roba fosse, bastava fossero russi. Forse memoria di quella cosa che dicevo di Chekhov, eh? Ripartito da Chekhov. Secondo me sì. E quindi, cioè, e poi scoprì anche che gli scrittori russi era molto simile ai francesi, tipo Balzac, cioè c'erano tante cose analoghe, che Tolstoi che si assomigliava, e quindi mi appassionai anche ai francesi. Quindi io quella fase lì, allora, non riguardavo la letteratura italiana, cioè non riguardavo un cazzo di nulla, non riguardavo quello che succedeva, ma io ero appassionata di andare in questo cazzo di biblioteca ad andare a leggere questi libri, più o meno tutti dell'Ottocento, ma appassionai all'Ottocento. Quindi mi facevo tutta un'idea del mondo un po' bislacca, forse, non lo so, perché poi non ho ricordi di che cosa si leggeva comunemente. Secondo me erano dei gran pacchi, cioè all'epoca che si leggeva, perché che non aveva profondità storica, cioè secondo me era un po' una roba un po' estemporanea, ecco. E quindi forse non mi ricordo neanche niente. In compenso mi ricordo molto di più di quest'altra roba, più che dei libri di scuola magari, ecco, era molto appassionato. Vabbè, la scoperta della letteratura in qualche modo. Sì, era preso più da quello. Lì invece, cioè a me quello che mi piaceva erano i discorsi, c'era cioè anche il ragionamento, e contemporaneamente anche la socializzazione, perché in qualche maniera avevo recuperato quello che non avevo mai avuto, cioè di sentirmi fra me e pari, cioè di avere una relazione paritaria, soprattutto di fidarmi di gente di cui mi fidavo, che, con cui non avevo paura di fare, o se anche succedeva non era un problema, no? Della mia ingenuità, del mio che mi potevano pigliare per i fondelli perché non capivo le battute, cioè, e in qualche maniera mi stava bene, cioè se loro anche mi avessero pigliato per i fondelli non mi dava noia, perché comunque era fatto poi con simpatia, ci si voleva bene, quindi lo potevo accettare, no? Io quel periodo lo ricordo come un periodo, da un punto di vista relazionale, positivo per me, che mi ha un po' almeno per quel momento lì, riappacificato con il mondo dopo quello che avevo passato. E secondo me poi ho patito molto quando quel gruppo, come tutti i gruppi, è morto, proprio perché quell'altro sono andati a vivere da un'altra parte e così via. Cioè, lì a me lì è stato un altro grosso taglio nella mia vita, perché me la sono dovuta riorganizzare, cioè lì è saltato tutto quello che ero abituato, cioè ho proprio cambiato, quindi poi ho fatto altri tentativi. E poi allora poi non ho più voluto andare a scuola, allora la classe operaia, allora amicizie magari anche del paese di altro tipo, però per me era estremamente insoddisfacente, finché poi non sono andata a Padova e lì poi è partita un'altra storia. Però gli anni del liceo, di cui la Biagini dice sapevo solo l'epilogo, gli anni prima invece era, cioè non è che è andato male a finire, cioè infatti io poi mi ritengo, anche se poi la maturità classica non l'ho mai presa, perché poi dopo che volevo andare a fare la classe operaia ho visto la mala parata quell'anno alle magistrali, uscì latino, io ho detto sai che mi sono iscritta all'ultimo presentando un certificato medico dopo i termini eccetera, ho detto no, io meglio che mi pigli un diploma, e andai a fare il magistrale privatista. Ma, e quindi tu sei andata via da scuola in seconda liceo? Sì, dopo la seconda liceo. Okay. Cioè la seconda non è, insomma, ti mancavano gli ultimi due anni o l'ultimo? Allora, la seconda non l'ho fatta, cioè l'ho fatta, ero stata magistrale, rimandata, ma non ci sono andata. Ho capito. Perché sono andata in fabbrica. Ma vai. Perché c'era stato anche un problema con un professore? Sì, anche sicuramente, poi è ovvio che quando è così c'è sempre un problema con questo l'italiano, che con cui io mi scontravo sempre. Ma questo qui siciliano era ancora lui? No, quello era il quarto ginnasio, quello che poi è l'italiano, che prima dicevo io andavo bene in italiano, mi stava anche simpatico. Peccato che poi ho capito l'anno dopo che lui era uno che voleva fare carriera politica, e quindi anche tutto quello che ci narrava era molto edulcorato da questo. Fece venire la RAI a intervistarci, per come lui era brillante, in prima liceo ci faceva croce, e salvo dopo ha bocciato gente su Dante, cioè quindi pigli per culo. E io questa cosa le andavo a dire in faccia, lui si risentì molto. E in seconda liceo proprio non me ne faceva passare una. E lui faceva italiano e latino, mi rimandò in italiano e latino. Ora, la possibilità rimandi una persona in italiano che l'anno prima ti andava bene. No. Cioè, era chiaro che era arrivata allo scontro io con questo. Infatti lui poi è finito a fare il sottosegretario per la Democrazia Cristiana. Non era una mia fissa, questa. Lui era così. Cioè, solo che lui all'epoca era un giovane di belle speranze che voleva apparire come l'insegnante aperto, una specie di Don Milani. Ma non era vero, c'era lì dai polli. A me era evidente com'era, e lui dà noia sta cosa, quindi sicuramente c'è fu questo scontro, si sommò il fatto che quell'altro non c'erano più, quindi il mio gruppo di amici era sparito, si sommò il fatto che nel frattempo mi ero messa in mente che questa cosa della classe operaia, in fin di conti, che onestà intellettuale abbiamo noi studenti, però noi in fabbrica non ci siamo mai andati, non possiamo capire, quindi, e quindi io volevo andare in fabbrica. Ma non mi hai fatto anche una protesta davanti al provveditorato? Sì, per questo. E infatti poi non ci andai perché mi aveva bocciato in italiano e in latino, rimandato in italiano e in latino, e sono andata pure ai corsi di recupero. E siccome quell'anno eravamo andati in gita e tutti ci si era abbriacati, tanto che due erano rimasti in ospedale a Bologna, perché era le prime volte in cui c'era il fumo, e quindi pure fumato, io non avevo fumato, io comunque tornai a casa, poi io ero di Recuaro, quindi io reggevo abbastanza, ci si era abbriacati tutti e c'era anche lui in questa gita. E faccio questo tema, ma era un tema di letteratura, quindi che cazzo c'era da ridire? E mi ricordo che mi mise un giudizio che era così, ma me lo ricordo ancora perfettamente. Quando hai fatto questo tema devi avere molto abbondantemente bevuto. Guarda, fa un giudizio. Io andai su tutte le furie, andai dal preside. Il preside era un cotechino, e questo era uno che aveva potere evidentemente. Quello che mi seppe dire fu, parli lei col professore, sa, perché inutile che glielo dica io, perché vuol mettere una cosa detta da un alunno, una cosa dei fondelli, cioè, insomma io volevo protestare, voglio andare a parlare col provveditore, la mamma ha detto che non voleva farmi andare a Vicenza, figurati, io avevo deciso che ci andavo, quindi lei mi venne dietro per paura che andasse a litigare, che chissà cosa succedesse, eccetera. Non mi fecero mai parlare col provveditore, io con questo mitico tema della discoria in mano, e il provveditore non c'era, e mamma diceva dai torniamo a casa, io, no, io sto qua sui gradini finché non torno il provveditore, ho stati là fino a sera, alla fine mi fecero parlare con uno a cui fece le mie lagnanze, vendendomi tipo che era il viceprovveditore, e a quel punto finì la mia protesta, mi stati là tutto il giorno sui gradini, Santa Nera, questo, che volevo parlare col provveditore, ma... E a quel punto capì proprio che se si nasce poveri vogliono che tu rimanga povero e che non ti dà retta a nessuno. Quindi fui molto abbacchiata anche da questa vicenda, che nessuno mi cagò per questa cosa. Il preside che mi dice così, quella, cioè, da chi andavo io? Cioè, non è che io, cioè, in quel caso non è che io potessi contare sui miei genitori, mi potevano anche dare ragione, ma che strumenti avevano la mamma? Solo quello di venire con me perché io non mi portassero via i carabinieri, almeno, ecco, secondo me, solo quello ho cercato di evitare, ecco, questa fu la mia grande protesta, mia genitore, una grande, e quindi poi andai in fabbrica, che vabbè, ora secondo me in fabbrica non ve la racconto ora, ve la racconto domani. Perché lì sì. È un anno un altro sì, questo sì. Era quando dovevi eventualmente andare in terza, cioè era la sì. Terza, era l'anno della terza, sì, sarebbe stato l'anno della terza, okay. Ma non l'hai fatti l'esame di settembre o sì? No, non ci sono andata perché cioè non ha fatto quelli della seconda in cui era stata rimandata e quindi non ha fatto, non si è posto il problema, tanto in fabbrica non mi ha chiesto che anno era arrivata. Siccome ero studiata mi ha messo a... Bisogna mandar via la gatta. Allora poi domani ripartiamo da... Dalla fabbrica. Chiudo, Sì, mi metallurgico proprio. Scusa, ora diciamo domani no. Alla fabbrica.